benvenuti al mondo delle civiltà, come se dipendesse dalle comodità. Benvenuti al mondo delle dignità, sotto i piedi pesanti della pubblicità. Grazie al progresso, se devo pensare adesso, basta un telecomando. Ma come fanno a dare più le prove? Ogni volta se c'è sempre da portare. Verso il mondo delle libertà, bello come uno slogan di una pubblicità. Non cambiare canale, no, guarda che varietà. Qua c'è chi muore di fame, ma prima pubblicità.